Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie per la vostra cortese attenzione, grazie a Ezio De Gradi per la regia. L'appuntamento per domenica prossima. Gli anni abbiamo la replica che è mercoledì notte verso l'una, dopo l'ultima edizione delle notizie, e i testi li troverete sul nostro sito, Radio Popolare /ascoltateci, mi sembra, /i programmi /caccia.